Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Vi racconto la storia del recupero, anzi della salvezza, dei grande patrimonio artistico italiano durante l'ultima guerra mondiale, in particolare legata a un personaggio che oggi non è molto noto, Pasquale Rotondi, che allora era un giovanissimo funzionario della Pinacoteca Nazionale di Urbino. Bene, questo poco più che ragazzo, appena laureato e appena nominato, si trovò a gestire un patrimonio artistico di importanza enorme. Perché? Perché le opere d'arte della Pinacoteca di Venezia, di Bologna e di Milano vennero tutte portate verso il centro Italia, in particolare come primo rifugio nella villa Marini Crarelli di Perugia, fino a che nel 1945 lì non successe appunto l'8 settembre e quella zona divenne pericolosissima, quindi si dovette portare verso nord questi capolavori e si finì appunto nel territorio di Urbino, nella rocca di Sasso Corvaro e nel castello di Carpegna, i due rifugi. Bene, questi due rifugi, in particolare Carpegna, vennero intercettati dai tedeschi e quindi questo giovane funzionario ebbe il sangue freddo la notte prima che arrivasse la pattuglia di togliere dalle grandi casse i cartellini che indicavano i capolavori di Raffaello, di Tiziano, eccetera, che c'erano all'interno di queste opere. E quando i tedeschi si distrassero un momento, con una complicità dell'arcivescovo di Urbino e dell'arcivescovo di Venezia, queste opere vennero fatte defluire dal rifugio e partirono per varie destinazioni. In parte vennero restituite a Venezia, in parte con un viaggio rocambolesco fatto di notte su dei camion a fare spenti raggiunsero Milano e da lì altri rifugi in Valtellina e nelle isole Borromee, dove hanno atteso la liberazione e ci sono state restituite sane e salve.